Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. L'anno si cambia, fa sapere la Gelmini. La terza prova scritta della maturità, quella che i ragazzi dovranno affrontare lunedì, sarà sostituita da una nuova che seguirà standard internazionali. Infatti, secondo il ministro della pubblica istruzione, di fatto oggi ogni studente viene valutato a discrezione delle singole commissioni. Due prove scritte dunque sono andate con grande sollievo degli studenti, ma anche quest'anno non è stato evitato l'errore nei testi proposti. Questa volta è toccato la traccia del liceo musicale. L'intestatura di Haydn è finita su una partitura di Beethoven, dettaglini insomma. Ad assumersi la responsabilità Bruno Carioti, direttore del Conservatorio dell'Aquila. Un banale scambio di fotocopie, fa sapere. A parte questo impiccio, al momento si segnalano giudizi positivi sulle prime due prove. Innanzitutto perché non si è trattato di tracce difficili, a sentire sia i ragazzi che gli insegnanti. E poi ci sono stati elementi di novità nella prova di italiano, con l'utilizzo delle fotografie e con tracce più snelle, ma anche in quella di matematica e poi il debutto del cinese in due scuole di Vicenza e Milano. Maturità naturalmente anche all'Aquila per i ragazzi che nella maggior parte dei casi ha sospeso gli studi quel maledetto 6 aprile. Per loro, come sapete, niente scritti, solo orali in tutte le materie. Abbiamo sentito Antonina Marinelli, la conoscete ormai, l'abbiamo già sentita altre volte perché è il nostro ponte sulla scuola aquilana e dell'Abruzzo. Sentiamo come sta andando in questi giorni l'esame. Come da attesa, nel senso che i ragazzi bravi si sono preparati, quelli meno bravi così stanno cercando, come dire, stanno cercando un po' la fortuna dell'esame. No? E questa è la regola per tutti, per mutati e non, diciamo. Questa è la regola per tutti quanti, appunto. Comunque, per il resto un po' di apprensione da esame, dovuto chiaramente da esame. Qualcuno è stato reticente anche ad entrare, voleva assolutamente fare gli esami fuori dalla palestra, perché dice no, la palestra è un ambiente chiuso, voglio stare fuori, insomma, ecco, così c'è stato un po' di dove li state facendo questi esami? Allora, la maggior parte, dunque, innanzitutto tutte le quinte di tutte le scuole al polo di Colle Sapone, c'è una zona qui all'Aquila che si chiama Colle Sapone, dove sono posizionate alcune delle scuole più numerose dell'Aquila, cioè il liceo scientifico, il tecnico industriale e l'istituto superiore Colecchi, che ha tre scuole. E quindi tecnico geometri, il professionale per l'agricoltura e il professionale per il commercio e il turismo. E allora diciamo che è un polo molto molto numeroso. La palestra del liceo, la palestra del tecnico geometri, cioè diciamo dell'istituto superiore Colecchi, è interamente agibile e quindi la palestra e più le tensostrutture, le due tende di tensostrutture, sono le zone in cui stiamo svolgendo gli esami. Però anche qualche aula pianterreno del tecnico industriale, che anche quello è stato ritenuto agibile, quindi sì, qualche ragazzo chiaramente preferirebbe stare nelle tensostrutture, nelle tende. Sì, vabbè, insomma, è questione di poco tempo, tra l'altro. Questi ragazzi hanno studiato, alcuni sono stati ospiti di altre scuole, dico bene? Alcuni sono stati ospiti di altre scuole, le famiglie sì, perché c'era il ministro Gelmini, ha dato questa opportunità. Tra l'altro ieri mattina è venuta qui all'Aquila il ministro Gelmini, è stata alla sede di Coppito, sono andati alcuni ragazzi in rappresentanza anche tra dei nostri, dei geometri tra l'altro. I ragazzi che sono andati via, che sono andati fuori dall'Aquila insieme alle famiglie, sono iscritte presso le scuole delle sedi, diciamo, lungo la costa, quindi dalle Marche fino a Vasto. Però poi sono venuti lì a fare l'esame? Quasi tutti. Sì. Ecco, quindi ci saranno state anche delle belle scene dei ragazzi che si saranno rivisti forse per la prima volta dopo il 6 aprile. Per la prima volta, ragazzi che si erano persi di vista dal 6 di aprile, ragazzi appunto baci, abbracci, incoraggiamenti vari. Comunque insomma è stato piacevole e bello anche questo rivedersi, ma la stessa cosa è successa anche tra noi docenti. Esattamente, anche voi professori. Parte stava sulla costa, parte stavamo qui all'Aquila in sede, sotto le tende, insomma abbiamo comunque cercato di chiudere al meglio questo anno scolastico, ma più che chiudere la speranza è che si possa riaprire al meglio a settembre un anno scolastico. Ecco, insomma, ci vorrebbe per davvero una comprensione un po' particolare in questo senso. Se non si capisce che la scuola è il veicolo trainante anche dell'economia del paese, significa la disgregazione della società urbana dell'Aquila. Cioè, se noi consentiamo ad intere famiglie di starsene fuori perché appunto non, l'Aquila non riesce a dare una, la sicurezza, la certezza della scuola a settembre, e quindi tutto sommato costringeremo noi, gli alunni, le famiglie a starsene fuori, per questo a mio avviso significa proprio la disgregazione e la fine di questa città, cioè anziché 70.000 abitanti quanti siamo, rischiamo per davvero di scenderne a 40, insomma, ecco. La rinascita questa, passa dovrebbe capire proprio dalla scuola. Parte dalla scuola, sì, la rinascita dell'Aquila deve, parte dalla scuola, parte dall'università, è una cosa un po' difficile, però quantomeno la scuola, dalla materna alla scuola superiore, deve garantire e deve tenere unita questa, deve essere il collante della rinascita di questa città. Io mi auguro che chi di dovere capisca questa necessità, perché così veramente, altrimenti ecco, vediamo sfumato anche tutto lo sforzo che noi abbiamo fatto, perché avremmo potuto benissimo noi in quanto terremotati dire sono talmente esaurita col terremoto che non ce la faccio eccetera, invece siamo tutti a fare gli esami. Questa è serietà, dimostra serietà anche da parte nostra, attaccamento al lavoro, ma io penso anche senso di responsabilità, quindi siamo tutti quanti a fare il nostro dovere. E forse anche un po' di voglia di normalità, insomma, no? Tornare a scuola, quella, tornare a lavorare. Sì, c'è molta voglia di normalità. Pensate di essere più buone con questi studenti quest'anno, visto il particolare disagio che hanno subito? Se anche qui all'esame si procederà così come fatto con gli scrutini intermedi, qualcosa, un po' di buonismo più generalizzato ci sarà senz'altro, sì, indubbiamente sì. Tempo di esami per gli studenti, ma quest'anno tempo di esami anche per qualche professore. Lo sapete, l'avete letto sui giornali nei giorni scorsi, al liceo classico Bercier di Milano i prof hanno avuto una bella sorpresina a fine anno. Accanto ai classici quadri con i voti dei ragazzi è comparso un bel tabellone con esposti i voti anche per loro. Il nostro Stefano Totoro è entrato al Bercier e naso all'insù ha scambiato quattro chiacchiere con una studentessa e una prof. Ma glielo dico, guardi, diceva mio marito che l'ha visto sul Corriere stamani, mi ha detto vai a vedere cosa ti ha dato, no? E io sono venuta a vedere e ho detto, dico, comunque, se io ho preso tutti e quattro, devo farmi un esame di coscienza, perché vuol dire che evidentemente ho sbagliato qualcosa, magari involontariamente, non dico che uno lo sbagli volontariamente, però... E voi avete dato giudizi ai prof? Sì, sì, sì. Buoni o cattivi? Dipende dai professori. Ovviamente. Sì, se la gira, no, ma vedo che abbiamo delle valutazioni, fra tutti ci sono dei voti abbastanza alti. Sì, no, tranne che. Ma come metodo, come vi sembra, efficace o no? Dipende poi da come la prendono gli studenti, perché molti la usano mezzo per vendicarsi, esatto. Tu mi hai dato due, allora io ti do uno o due, ma semplicemente tanto per l'antipatia. La valutazione però gliel'hanno data, l'hanno fatta prima dello studio. Qualsiasi sia la valutazione, secondo me è corretta, perché nel mio caso io ho 7 classi. È possibile che una media di 25 studenti per classe tutti si vogliano vendicare, ci sarà una percentuale che ce l'avrà con me per un qualche motivo, però grosso modo la maggioranza dice in coscienza quello che pensa. Ecco, non si sentiva molto bene l'audio perché dentro la scuola non ci è stato concesso di usare il microfono. Il nostro Stefano Totoro ha registrato dunque un po' di straforo con il telefono. Comunque l'idea non trova del tutto contrari i prof. Mi sembra che per coloro che hanno ricevuto dei voti non belli è un po' imbarazzante. Ecco, professoressa, questi colleghi che hanno avuto 4 hanno contestato molto i... Non lo so, perché l'abbiamo visto in questi giorni, non sono sempre giusti. Ma secondo lei i ragazzi sono in grado di valutare i professori o no? Abbastanza, sì, dico abbastanza perché i ragazzi a volte colgono proprio bene certe cose, però non sono così maturi e capaci proprio di valutare, insomma. Cioè, che valore devono dare i professori a queste valutazioni? Beh, insomma, gli insegnanti dovranno tener conto di queste cose, ma fino a un certo punto. Secondo me comunque avrebbero potuto mettere queste valutazioni sul loro giornalino, sarebbe stato, non so, più corretto, più... È vero che noi li valutiamo e i loro voti sono esposti e li vedono tutti, però insomma quelli degli insegnanti avrebbero potuto metterli sul loro giornalino o comunque consegnarli al preside perché ne facesse lui tesoro. Prof, sostanzialmente dunque non contrari comunque all'ipotesi di vedersi affibbiare dei voti dagli studenti, forse per fare buon viso a cattivo gioco. Studenti ovviamente ben più entusiasti. Da soddisfazione comunque come cosa, e poter finalmente anche noi dire qualcosa sui professori. Secondo te c'è qualcuno che in qualche modo si vendica con questo voto, oppure è un voto veramente obiettivo e sul... No, abbastanza obiettivo, perché poi la media è risultante da tutti quanti, quindi se tu hai dato un voto basso magari altri no. Senti, mi puoi spiegare come avete votato? In classe, passato questo foglio, abbiamo messo i voti, ognuno di noi. Foglio compilato da chi? Compilato da alcuni studenti, un foglio con una tabella dovevamo inserire. Con il nostro professore. Ma i più favorevoli, a sorpresa, all'idea di dare voti ai professori sono i genitori. Secondo lei come iniziativa com'è? Ma può essere interessante, perché può essere anche da stimolo per i professori, per capire dove magari si può sbagliare e migliorare qualcosa nel proprio lavoro. Qualcuno dice che i ragazzi sono troppo immaturi per poter dare delle valutazioni così. Ma no, i ragazzi sono anche loro protagonisti della scuola, per cui sicuramente non deve essere un giudizio che deve pesare sul lavoro all'interno della scuola dell'insegnante, però è comunque un segnale. Sì, può funzionare assolutamente. Dovrebbe esserci ovunque o no? Con i dovuti modi sì, nel senso che poi bisogna pensare che sono ragazzi che sparano sempre a mille contro gli adulti, giusto perché devono comunque sia contrapporsi a loro. Però delle valutazioni dei ragazzi sono secondo me altrettanto valide. Non sono troppo immaturi? No, secondo me no, e comunque per raggiungere loro una certa maturità hanno bisogno di confrontarsi e di scambiare le loro idee anche con gli adulti, per cui è giusto che loro abbiano anche una parola da dire. È un indice di gradimento, diciamo, dei professori, non assoluto, non ha un valore assoluto, però è un indice al quale i professori dovrebbero prestare attenzione. È frutto di una condivisione di lavoro e quindi hanno anche già l'età probabilmente per dare un giudizio responsabile e sensato. È tutto, come sempre l'appuntamento è per sabato prossimo alle 12:45, un saluto da Maria Piera Ceci.